La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. La puntata di oggi è interamente dedicata alla partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale. L'Italia fascista entra in guerra il 10 giugno 1940. Quali furono gli eventi che portarono il Duce a questa decisione? Che atmosfera si viveva in Italia in quegli anni? E la popolazione come accolse la decisione di Mussolini? Da queste domande prende avvio l'approfondimento di Dino Pesole di quest'oggi. Ospite ai nostri microfoni Giorgio Rochà, già docente di storia contemporanea all'Università di Torino. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. È il 10 giugno del 1940, sono trascorsi 70 anni da quell'afoso pomeriggio in cui la voce del Duce, amplificata dai megafoni sparsi un po' ovunque nella penisola e diffusa dalla radio nelle case degli italiani, annunciava al paese e al mondo che era giunta l'ora segnata dal destino, l'ora, dichiarò Mussolini, delle decisioni irrevocabili. L'Italia entrava in guerra a fianco della Germania nazista, proprio nei giorni in cui carri armati di Hitler erano alle porte di Parigi. L'annuncio era nell'aria. La propaganda del regime da giorni martellava sui giornali inneggiando alla travolgente avanzata tedesca in Francia. Anche le scuole avevano chiuso i battenti anzitempo il 31 maggio e già era scattato per ordine dei prefetti un severo piano di razionamento dell'elettricità e della benzina. Il paese però appariva distratto, quasi impreparato a quella che si sarebbe rivelata come una delle più disastrose avventure belliche della storia. Il giorno prima dello storico annuncio del Duce, un giovanotto semisconosciuto, Fausto Coppi, aveva vinto il suo primo Giro d'Italia di ciclismo. Il campionato di calcio si era appena concluso con la vittoria dell'Inter. Quando alle 6 di sera Mussolini annunciò che la dichiarazione di guerra era stata appena consegnata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna, molti testimoni, al di là dell'entusiasmo della piazza sotto il balcone del Duce, parlarono di un paese disciplinato, quasi rassegnato. Non sembrò esservi la consapevolezza che quell'annuncio comportava a tutti gli effetti l'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Un conflitto scatenato da Hitler con l'invasione della Polonia, che stava precipitando il mondo in una catastrofe senza precedenti. Il bilancio, alla fine del conflitto, sarà di oltre 50 milioni di morti. L'entrata in guerra dell'Italia, preparata dall'avventura coloniale, fu dettata in prevalenza dalla consapevolezza maturata nel Duce già 2 anni prima, subito dopo la conferenza di Monaco, che solo scendendo in campo a fianco della Germania nazista si sarebbero create le condizioni per fare dell'Italia una grande potenza. Una decisione tragicamente sbagliata, anche alla luce della debolezza dell'apparato militare e di difesa italiano. Siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra e che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Abbiamo in linea il professor Giorgio Rochà, storico, già docente di storia contemporanea all'Università di Torino. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Professore, una domanda le vorrei rivolgere subito, riguarda un aspetto che richiama un po' anche ai suoi studi. Lei è un esperto anche di storia militare. Ma quali erano le condizioni reali dell'apparato militare bellico dell'Italia in quel giugno del 1940? Mussolini era consapevole che in fondo eravamo piuttosto deboli da quel punto di vista? Beh, l'Italia era una media potenza che non poteva competere con Francia, Germania e via dicendo, tanto più che dal 1935 in poi tutte le risorse finanziarie erano state indirizzate alla conquista e espansione in Etiopia, poi alla guerra di Spagna, per cui il riarmo dell'esercito e dell'aviazione si era bloccato. Cioè noi nel 39-40 abbiamo gli stessi aerei e gli stessi carri armati del 35, mentre invece gli altri paesi hanno fatto un riarmo accelerato come qualità e come quantità. Quindi l'Italia entra in guerra in una condizione di estrema debolezza. Mussolini probabilmente sperava di in qualche modo connettersi alla travolgente avanzata del Führer, ma questo evidentemente non poteva bastare anche dal punto di vista strettamente militare. Ma Mussolini aveva sempre fatto una politica di potenza al di sopra delle forze del paese. Che l'Italia fosse una media potenza non era colpa di Mussolini, diciamo. La colpa di Mussolini era di continuare a considerare, a credere che l'Italia fosse una potenza alla pari di quelle maggiori, cosa che invece non era. Al momento dello scoppio della guerra i bluff finiscono, non si può più fare finta che l'Italia sia più grande di quello che non è, contano soltanto i rapporti di forza reali. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, sappiamo bene che in un regime dittatoriale la propaganda poi è quella che determina gli orientamenti e gli umori dell'opinione pubblica. Sì. Ma secondo lei, dal punto di vista proprio storico, ci fu in qualche parte, almeno dell'opinione pubblica italiana, in quel giugno del 1940, la consapevolezza che stavamo per correre un'avventura che ci avrebbe condotto in un vicolo cieco? Ma è difficile dirlo, non possiamo sapere con precisione cosa fosse l'opinione pubblica in un paese in cui la stampa e tutte l'opinione pubblica era controllata, inquadrata, eccetera. Per quel poco che possiamo sapere, nel 40 l'opinione pubblica era sollevata di dover affrontare una guerra già vinta dalla Germania. Ecco, dal punto di vista strettamente militare, poi come si articolò questa impresa dell'Italia nella guerra? Cioè Mussolini immediatamente schierò le forze a fianco della Germania nazista, come proprio dal punto di vista militare, volevo capire meglio con lei come si articolò proprio l'offensiva dell'esercito italiano. Mussolini aspettò fino all'ultimo che la guerra fosse già vinta dalla Germania. Ecco. Sì. La Germania nel 10 maggio del 1940 scatena una grande offensiva, in circa un mese arriva a Parigi, quando Mussolini dichiara la guerra la Germania è già a Parigi e a Lione, per cui l'offensiva italiana non ha più senso, o meglio, Mussolini è convinto che i tedeschi abbiano già vinto e che i francesi crolleranno senza opporre resistenza a un'avanzata italiana che non ha alcuna preparazione né consistenza. Quindi una delle convinzioni di Mussolini era che tutto sommato la guerra poi sarebbe durata poco con la stravolgente vittoria della Germania nazista, un tragico errore. No, che la guerra sarebbe durata poco non era solo a chiederlo mai nell'estate del 1940, e soprattutto che la guerra doveva vincerla la Germania. L'Italia avrebbe approfittato delle vittorie tedesche per farsi regalare dei territori, dei premi che non aveva in alcun modo meritato. E quando maturò, professore Mussolini, la percezione dal punto di vista, dico strettamente militare, che invece le cose non stavano andando in questa direzione? Beh, il 19 giugno del 40 Mussolini capisce che Hitler non gli regalerà i suoi obiettivi di guerra. Cioè, Mussolini sperava di avere gratis da Hitler la Savoia, Nizza, la Corsica, la Tunisia, i Djibouti, magari anche il controllo della Francia fino al Rodano, il 19 giugno capisce finalmente, e Hitler gli dice chiaro, che l'Italia avrà soltanto i territori che ha occupato nella sua offensiva, che a quel momento non era ancora partita. Quindi Mussolini a questo punto capisce che se vuole qualcosa deve conquistarselo, e quindi scatena un attacco su tutto il fronte dal Monte Bianco al mare, anche se non c'è alcuna preparazione specifica in questo senso. Quindi, insomma, anche dal punto di vista strettamente militare, qui si vede proprio nettamente la debolezza poi della nostra offensiva. La debolezza, ma l'offensiva aveva una sola speranza di successo, che i francesi crollassero. Sì. Cioè, Mussolini sperava, non lo dicevano a mezza voce lui e i suoi generali, che la Francia era ormai crollata, stava arrendendosi, i francesi che difendevano le Alpi avrebbero potuto crollare anche loro e aprirci la via. Questa era l'unica possibilità che il nostro attacco avesse successo. In realtà i francesi non ci pensavano affatto ad arrendersi, si batterono bene e noi finimmo senza alcun successo, significativo. Professore, la ringrazio molto. Prego, grazie a lei e buona serata.